in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani, l'ultima di aprile e probabilmente con la prossima, la prima di maggio, avremo anche qualche anticipazione in più, anzi dovrebbe essere qualche certezza in più perché dovrebbero arrivare domani, su come appunto dal 4 di maggio, quindi il lunedì 4 maggio, probabilmente si vivrà in un modo diverso, con alcune restrizioni allentate, non del tutto eliminate. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, che oggi titola sulla una questione molto importante per tantissime persone, che è quella fiscale, e quindi il titolo: fisco, accertamenti e cartelle sospesi fino al 30 di settembre. Quindi, viste tutte le difficoltà attraversate negli ultimi mesi, c'è questo importante cambiamento per le partite IVA: sterilizzate le pagelle fiscali ai fini dei controlli, nuovi premi per chi ha voti alti. In aprile bonus di 800 euro agli autonomi senza nuove domande, mentre per maggio l'assegno diventerà selettivo. La fotonotizia è dedicata poi a un lungo articolo che trovate a pagina 9 di Maurizio Caprino, una voce nota anche agli ascoltatori di Radio 24. Cantieri riaperti sulle autostrade, infrastrutture al collasso, perché come sapete, come avete sentito e come da indiscrezioni delle ore scorse, questa fase 2, cioè quella che ci dovrebbe far uscire dal lockdown completo, prevede via libera subito ai piccoli cantieri di scuole e ospedali. Il Corriere della Sera: riaperture, ecco il piano. E poi questa fotonotizia che troviamo anche su altri giornali: il presidente Sergio Mattarella, che ieri ha festeggiato il 25 aprile con un omaggio all'altare della patria, era solo, c'erano solo i corazzieri, anche loro con la mascherina, aveva la mascherina. Il presidente della Repubblica ha ricordato a Roma la festa della liberazione e ha anche commentato: rinasceremo come allora, cioè come dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche molti articoli legati proprio alle questioni mediche sanitarie sull'emergenza. Margherita De Bac ha intervistato Alberto Mantovani, un immunologo e presidente dell'Istituto Humanitas di Milano, perché la notizia di ieri, che sicuramente ha suscitato qualche preoccupazione e ulteriori discussioni tra gli scienziati, è l'affermazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla questione dell'immunità di chi ha già contratto la malattia ed è guarito, perché a differenza di altre malattie causate da altri virus, il fatto di ammalarsi una volta potrebbe non garantire l'immunità. Quindi anche i test in arrivo, tra l'altro anche in Italia, già diffusi in altri paesi, che rilevano la presenza di anticorpi, che significa a sua volta che si è già stati ammalati e il nostro organismo ha reagito producendo questi anticorpi, ebbene non sarebbe certezza di non riammalarsi. La Repubblica, seconda numero firmato dal nuovo direttore Maurizio Molinari, che sapete è uno dei protagonisti di questo giro di poltrone che c'è stato nei quotidiani, perché La Repubblica e La Stampa, benché siano di proprietà dello stesso editore, cioè Gedi, hanno pochi giorni fa annunciato appunto Maurizio Molinari, ex direttore della Stampa, è diventato direttore di Repubblica, e Massimo Giannini, ex vice direttore di Repubblica, poi transfuga alla RAI per un breve periodo come conduttore di Ballarò, poi tornato a Repubblica come commentatore e poi anche nominato direttore di Radio Capital, e personalmente non ho capito se manterrà anche quella poltrona, è diventato direttore della Stampa e dei quotidiani locali dell'editore Gedi, che in tutto questo, naturalmente, rispetto al precedente assetto di direttori, direttore di Repubblica era Carlo Verdelli, e ha cambiato proprietà, cioè dal gruppo De Benedetti è passato al gruppo Gedi, cioè degli Agnelli. La Repubblica, quindi, Conte, due punti, le scuole aperte già a settembre, ed è un'intervista, la prima grande intervista in cui si cimenta Maurizio Molinari insieme a Stefano Cappellini, appunto al Premier Conte, pagine 2 e 3. E poi un commento di Eugenio Scalfari, che tra i tanti retroscena immaginati per questo giro di poltrone, era stato appunto protagonista, il fondatore di Repubblica, e continua a firmare ogni domenica da quando non è più direttore un editoriale. Cioè, si era detto che siccome aveva avuto un ruolo attivo nel scegliere il precedente direttore Carlo Verdelli, sarebbe stato scontento di questa scelta di Maurizio Molinari, ora commenta: il giornale che ho fondato è un fiore che non appassisce. Con Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso, e questo visto che comunque appunto ieri era il 25 aprile, giorno della liberazione, L'Espresso intitola a copertina La Resistenza. La fotografia molto bella è quella di due mani, sono le mani di Giorgio Allori, che oggi ha 98 anni, deportato mentre sfoglia il suo quaderno della prigionia. Ma c'è anche un riferimento all'emergenza sanitaria, con un lungo articolo poi all'interno: tamponi, residenze sanitarie, contagi in casa, i prossimi fronti. La Stampa, vi dicevo, seconda edizione firmata dal nuovo direttore Massimo Giannini, che ieri ha salutato i lettori ricordando tutti i suoi arrivi, addì, ritorni tra La Stampa e La Repubblica, senza citare appunto la breve avventura in Rai con Ballarò, dove aveva sostituito Giovanni Floris, che nel frattempo era andato alla 7. Proprio il panorama dei direttori italiani è appunto una serie di eterni ritorni. Ma ecco che oggi anche lui si esibisce subito in una lunga intervista, in realtà lo chiama colloquio, è un colloquio col ministro dell'economia Gualtieri, quindi titolo a tutta pagina: Gualtieri due punti, nessun rischio Italia, ce la faremo. E trovate tutto alle pagine 2 e 3. La fotonotizia però è la stessa, la foto è la stessa usata dal Corriere della Sera, ed è quella di Sergio Mattarella di fronte a queste scale sono quelle sotto l'altare della patria a Roma, le piazze virtuali del 25 aprile. Mattarella, rinasceremo. Il Messaggero avanza la fase 2, nodo trasporti. Su questo naturalmente si è discusso molto, ho sentito anche per esempio venerdì un interessante intervento qui a Effetto Giorno con Simone Spezia dell'assessore alla mobilità milanese, e fanno impressione le cifre che dovranno essere ridimensionate del trasporto pubblico. Per esempio appunto la metropolitana milanese trasportava ogni giorno prima del lockdown 1 milione di persone, con le misure necessarie del distanziamento si potrà trasportare in teoria, sulla carta, poi vedremo come ci si organizzerà, 400.000 persone. Capite che quindi il nodo dei trasporti a Milano e non solo diventa uno dei più importanti di questa cosiddetta fase 2. Fotonotizia, sempre quella del presidente Mattarella, sempre quella del presidente Mattarella, con il titolo Solo e con la mascherina, il 25 aprile di Mattarella. E poi, a proposito di interviste a immunologi, c'è l'intervista richiamata in prima pagina di Mauro Evangelisti a Giuseppe Ippolito, che è direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, e sicuramente ricorderete che nei primi giorni, ancora prima che ci fossero i primi casi in Lombardia e Veneto, c'erano stati i casi dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani perché provenienti dalla Cina, erano risultati positivi al coronavirus. E dice Ippolito: errori fatali in Lombardia, mentre il Lazio ha tenuto. Al posto del consueto intervento di Romano Prodi alla domenica sul Messaggero c'è un lungo intervento di Luca Ricolfi: i dati che ignoriamo, le condizioni che servono per ripartire in sicurezza, dove Ricolfi fa un po' il punto su tutto quello che è stato detto, commentato, smentito sulle emergenze della fase 2. Il Giorno: prove di ripresa nell'Italia che riapre, qui ancora la foto di Mattarella, uno per tutti. Ripartono molte aziende, sapete che al di là del 4 maggio, che dovrebbe essere un'altra data importante per una serie di allentamenti, anche già domani ripartono appunto alcune aziende, i cantieri pubblici, ok ai pasti d'asporto, E poi, per esempio, c'è questa curiosità: chi vive sulle coste può fare bagni in mare. E poi le esternazioni di Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, ieri è tornato sul tema delle mascherine, dicendo che è stato fissato il prezzo delle mascherine e che saranno obbligatorie. Avvenire, tanta voglia di fase 2. La fotonotizia qui richiama la situazione in India, che sapete è la più grande democrazia al mondo, più grande nel senso è il paese con il più alto numero di persone ed è una democrazia, perché naturalmente l'altro paese con più di 1 miliardo di abitanti è la Cina, ma non è una democrazia. Anche l'India aveva deciso un lockdown e ora, racconta Stefano Vecchia, poi l'articolo lo trovate a pagina 11, l'India, che si era reclusa, ora riduce la quarantena. I dati ufficiali parlano di pochi morti, per quanto i morti possano essere pochi, ma ci sono forti dubbi sui dati, così come continuano a essercene sui dati che vengono dalla Cina. Il premier Modi punta sull'orgoglio nazionale. Il secolo XIX, ve lo segnalo perché a proposito di trasporti c'è una foto che ritrae gli esperti dell'Università di Genova e i tecnici dell'azienda municipale dei trasporti che provano a testare distanze e mascherine che i passeggeri genovesi dovranno rispettare nella fase 2 sugli autobus. Genova, sui bus viaggeremo così. E poi, naturalmente, la Liguria, che già, se in una situazione normale, avrebbe iniziato sicuramente la stagione estiva in queste belle giornate di Pasqua e Pasquetta, e che, alle quali naturalmente ha dovuto rinunciare, sì del governo ai bagni in mare, Liguria ok a uscite coi familiari. Oggi in regione il via alle nuove misure, e un virgolettato del governatore della Liguria, Toti: serve un calendario lungo e libertà di manovra. E poi un'intervista richiamata in prima pagina al sindaco di Genova, che è anche il commissario per l'emergenza del ponte Morandi. Bucce il ponte, il segreto, tecnici giusti e fuori la politica. E poi vi segnalo, ogni domenica lo scrittore Maurizio Maggiani interviene sul secolo XIX. L'intervento di questa settimana, secondo me, è molto interessante perché riguarda quel tema, secondo molti ignorato o comunque sicuramente trattato non come una priorità rispetto ad altri paesi, ed è quello della scuola. In Italia è quasi sicuro che le scuole non riapriranno per questo anno scolastico. Per quello che riguarda poi settembre ci sono molte incertezze. Sapete che, per esempio, altri paesi hanno fatto scelte diverse. In Francia le scuole riapriranno l'11 maggio. Segnaliamo ancora una volta che c'è un problema naturalmente di calendari scolastici. Quello italiano è in Europa uno di quelli che finisce prima, quindi si pone il problema dell'opportunità comunque di riaprire le scuole per poche settimane. In altri paesi invece si tratta di mesi, restano ancora mesi di scuola, ma, dice Maurizio Maggiani, la scuola non è un tablet, non perdiamo tempo. E torna anche il tema appunto delle lezioni via internet. Primo, perché ci sono tantissimi allievi, alunni, studenti che non hanno i mezzi, né i computer né il collegamento abbastanza veloce per seguire queste lezioni. Secondo, perché naturalmente a seconda dell'età non si può semplicemente lasciare un bambino davanti a un computer, e quindi l'impegno dei genitori, che anche a maggior ragione se non ci può essere questa possibilità della scuola via internet, ma anche quando c'è, cioè ci sono i computer, c'è il collegamento, vuol dire che i genitori devono seguire questo. E quindi il tema di, visto che molte persone potranno tornare a lavorare, magari anche facendolo il telelavoro, però comunque con i bambini a casa. E quindi giustamente Maurizio Maggiani dice che questa dovrebbe essere una priorità. Libero, Milano resta ingessata, un passo avanti, due indietro, apertura di Pietro Senaldi, aziende e città abbandonate a loro stesse. Poi sicuramente avrete sentito, avrete seguito, magari non seguito, ma sentito delle polemiche dopo che Vittorio Feltri, nella trasmissione di Mario Giordano, aveva definito i meridionali inferiori. Qui torna sul tema: Lombardia stracciona, sud florido, differenza sociale. E ammette lui stesso: vorrei girare la frittata, sono stato linciato, eccetera eccetera eccetera. Trovate tutto a pagina 12 per gli appassionati di questa vicenda. E poi Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, lettera a Feltri: ho vissuto un'esperienza simile alla tua. Tutti e due questi interventi a pagina 12. Noi ci fermiamo un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto e alle ascoltatrici naturalmente e a chi sta già mandando messaggi 349 238 6666, sms o whatsapp. Ha ragione l'ascoltatore che dice: in Cina uomini e donne hanno pari dignità, in India no, o meglio ha ragione, sicuramente hanno una dignità, le donne in Cina soprattutto nelle grandi città hanno più diritti rispetto a quanto accade in India. E all'ascoltatore invece che mi dice: si sfoggia la propria cultura personale o si fa rassegna stampa, non so cosa intenda, però sappia che ho letto il suo messaggio. E poi invece, questo veramente non lo capisco, un altro ascoltatore che dice, che chiede: ma parlare di poltrona riguardo a ruoli giornalistici non è becero? Poltrona significa poltrona, sicuramente non è un modo di dire particolarmente raffinato, non è becero secondo me. E poi dice, soprattutto quando si parla del gruppo editoriale che accoglie un vostro ex collega, e qui veramente non so cosa intenda, anche perché ex collega, se è un giornalista resta un collega, dopodiché l'idea della colleganza aprirebbe tutto un altro discorso che sicuramente non c'entra con la rassegna stampa. Comunque, se l'ascoltatore vuole spiegarmi meglio, io sono qua, cerco di leggere i giornali oltre a leggervi i titoli delle prime pagine. Ci mancava Il Giornale. Berlusconi si smarca, centrodestra in agitazione. Il tema, lo sapete, è già quello dei giorni scorsi, cioè sull'opinione di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, che si è detto favorevole al MES, il fondo che naturalmente ha, sapete, inutile qui ripeterlo, credo che tutti l'abbiamo sentito, è ancora un nodo sia all'interno del governo che naturalmente tra governo e opposizione. E già su questo Berlusconi aveva detto di essere favorevole, anche perché nel frattempo è, come sapete, molto cambiato rispetto al MES, è l'acronimo di Meccanismo Europeo Salva Stati, è naturalmente molto cambiato rispetto al MES, che conservava lo stesso nome, lo stesso acronimo usato per la Grecia, nell'emergenza della Grecia. Comunque, questo è il fatto di Berlusconi, ma il Cavaliere, spiega Il Giornale, prende le distanze da Salvini, festeggia la liberazione e non vota la sfiducia a Gualtieri. Ecco, questo è un altro punto. Appunto, Silvio Berlusconi, di fronte all'annuncio di Matteo Salvini, leader della Lega, di stare lavorando a una mozione di sfiducia per il ministro dell'economia Gualtieri, di cui se volete trovate una intervista colloquio alle pagine 2 e 3 della Stampa. Berlusconi ha detto: noi non parteciperemo noi come Forza Italia a questa idea di una sfiducia al ministro dell'economia Gualtieri, che è del PD. Vi segnalo, perché questo è un altro tema su cui si rincorrono le notizie non essendoci fonti certe, ed è quello che sta succedendo in Corea a Kim Jong-un. Secondo molti avrebbe questo è un dato di fatto, in realtà quasi un anno fa si era sottoposto a un intervento di cardiochirurgia, non si sarebbe mai ripreso. Negli Stati Uniti si rincorrono le voci sulla sua salute, è intervenuto anche il presidente Donald Trump dicendo che, a quanto risulta a lui, in realtà Kim Jong-un sta bene. Il Giornale, articolo di Luigi Guelpa che poi trovate a pagina 34, la Corea vuole negare ma Kim Jong-un sarebbe già morto. Il Fatto Quotidiano, cosa potremo fare e cosa no dal 4 maggio, con tutti i dettagli della fase 2, anche se specifica il Fatto Quotidiano, domani sapremo, perché appunto i dettagli sono in corso di definizione. A proposito di quel giro di poltrone, continuo a chiamarlo così perché sono le poltrone apicali dei giornali, cioè quelle dei direttori, si esercita in un commento il Fatto Quotidiano, richiamato in prima pagina, Stampubblica, il neologismo naturalmente è legato al fatto che, come vi dicevo, Stampa e Repubblica appartengono da qualche mese allo stesso gruppo GEDI, Elkan svolta editoriale, Zinga, che sta per Zingaretti, teme il governissimo, perché la tesi del Fatto Quotidiano, anche qui per gli appassionati di questi temi. Io continuo a pensare, scusate se inserisco questo mio parere, ma essendo appunto una cosa che riguarda la mia professione, ci tengo, io continuo a pensare che in realtà i giornali dovrebbero sempre avere fatti separati dalle opinioni, servire soprattutto a dare gli strumenti a tutti per formarsi una propria opinione, e che quindi questa idea della stampa che così tanto potrebbe influenzare l'opinione pubblica o così tanto potrebbe servire a essere la voce di un padrone mi addolora anche, non è l'idea di giornalismo che avrei io nel mio piccolissimo, che infatti non sono direttore di niente. Ma scrive il Fatto Quotidiano, la nuova linea del giornale fondato da Scalfari, quindi Repubblica, e ora diretto da Molinari, è quella di un'unità nazionale per Draghi con la Lega di Zaia. Questa è l'interpretazione del Fatto. Il PD resta senza più un quotidiano di riferimento, perché si è detto per molto tempo che il quotidiano di riferimento del PD fosse appunto la Repubblica. De Benedetti punterebbe a farne un altro. Il Manifesto Anticorpi, questo tema molto, che naturalmente è una parola che si usa in immunologia, sono appunto quei microorganismi che il nostro organismo forma quando viene attaccato da un virus, per esempio. Ma qui è usato in un altro senso, perché la fotografia è stata scattata a una facciata dove molte persone avevano esposto la bandiera tricolore. La liberazione ai tempi del lockdown viene festeggiata soprattutto sul web, perché come sapete, come è giusto che sia, sono normalmente il 25 aprile è uno dei giorni in cui si svolgono tante manifestazioni. Ovviamente ieri non è stato così, perché siamo ancora nel lockdown con il divieto delle persone di avvicinarsi a meno di un metro, ma dai balconi di tutta Italia esplode Bella Ciao. Il Manifesto è l'unico che oggi mette in prima pagina il dato sui contagi e morti. Calano contagi e morti. La Protezione Civile ha registrato 415 morti e 2.357 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Caso Piemonte, perché in realtà mentre la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, le regioni più colpite, cominciano a mostrare appunto dei dati in discesa, non voglio chiamarli positivi visto che siamo di fronte comunque a centinaia di morti, però invece nel Piemonte la situazione resta ancora molto grave. L'ascoltatore dice: si dice incarico apicabile, non poltrona. La poltrona abbiamo più o meno tutti, l'incarico no. Ma certo che si tratta di un modo di dire, tutti abbiamo più o meno una poltrona, non lo so, una sedia su cui sedersi in ufficio, anche se si va almeno questa è una delle ipotesi di cui in realtà si parla da tanti mesi, direi anni, cioè di una sempre minor presenza negli uffici, quindi sempre meno sedie. O meglio, quando si va in ufficio si occupa la sedia che poi magari il giorno dopo, dopo giorni, può essere quella di qualcun altro, perché si dovrebbe usare sempre di più il telelavoro dove sia possibile, a maggior ragione naturalmente nella fase 2. Vi dicevo, andiamo alle pagine interne, quindi torniamo al Sole 24 Ore, l'approfondimento sul tema che è l'apertura del Sole 24 Ore, il pacchetto fiscale nel decreto aprile con la sospensione, partite IVA, pagelle fiscali sospese, slittano accertamenti e cartelle, pagina 3 del Sole 24 Ore. A proposito degli Stati Uniti, dove comunque ormai è tra l'altro purtroppo i numeri continuano lì ad aumentare, ed è ormai gli Stati Uniti è il paese fatta salva la precisazione naturalmente che ci sono molti dubbi sui dati che sono arrivati dalla Cina e che continuano ad arrivare, però ufficialmente gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di morti e di contagi. L'inchiesta di Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, piccola impresa dimenticata dagli aiuti di Trump. Le cosiddette small business, che è la traduzione di piccole e medie imprese, a bocca asciutta. Il Dipartimento del Tesoro, costretto a chiedere la restituzione delle sovvenzioni erogate a aziende medio-grandi per appunto spostarle ad aziende più piccole. Vi dicevo l'approfondimento di Maurizio Caprino, lo trovate a pagina 19 sui cantieri. E poi invece nella pagina dei commenti, molto bello l'intervento di Giuseppe Lupo, che tra l'altro è anche candidato allo Strega, è scrittore ma molto attento a tutti i temi sociali, ma questo è proprio un articolo, la festa nelle piazze vuote di un paese che vuole rinascere, quindi una visione di quello che è successo ieri 25 aprile. Sempre dal Sole 24 Ore, la pagina Sport e Business ogni domenica, questa settimana Marcello Frisone si concentra sulla Formula 1. La partenza sperata vale 2 miliardi, sperata perché per la Formula 1, come per tantissimi altri sport, naturalmente in testa al calcio, non ci sono ancora delle date precise. Il Circus, che è uno dei modi appunto per intendere il circuito, il circo della Formula 1 letteralmente, che fa i conti con tagli degli stipendi e cassa integrazione per i dipendenti, lavora a pieno regime per cercare di non perdere fatturato. Poi la sezione Lifestyle, due pagine in qualche modo comunque legate a questa situazione di lockdown. Giovanna Mancini ci racconta divani d'ozio e di lavoro in tempi di lockdown. Stile relax, fulcro non solo del salotto, ora si trasformano in piccoli mondi sui quali riposare, studiare e intrattenersi. E Sara De Ganello, anche lei esperta di molte cose ma anche di design, racconta verso la fase 2 designer alle prese con le mascherine, perché oltre a quelle di stoffa o comunque di vari tessuti, anche di tessuto non tessuto, che è tipicamente il cosiddetto TNT, quello usato per le mascherine chirurgiche, lo avrete visto anche voi sicuramente, l'offerta si sta moltiplicando, quindi anche da parte di designer che appunto magari presentano delle mascherine, di quelle sicuramente utilizzabili più a lungo, non monouso. E poi, sempre comunque legato al tema del lockdown, Federico De Cesare Viola, gli immancabili nella cantina casalinga, dal Franciacorta al Marsala, dal Timorasso all'Aglianico o Aglianico, non so, tre super esperti ci aiutano a conoscere e scegliere le etichette preferibilmente italiane che non devono mancare. Vi dicevo l'intervista molto interessante ad Alberto Mantovani, immunologo, direttore scientifico e presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca. Margherita De Bac, pagina 9 del Corriere della Sera, è un virus anomalo. Per quanto tempo gli anticorpi ci proteggono davvero? È una domanda, come dicevamo, a cui ancora non si può rispondere con certezza. E poi ho detto quanto mi sembra importante il tema della scuola, pagine 12 e 13 del Corriere della Sera, la scuola e le regole. Lo studio matematico del Politecnico, riapriamo materne elementari, purtroppo in realtà, benché alcuni esperti appunto dicano che sarebbe possibile, il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha detto che in realtà non sarà così. E poi, per esempio, un'altra proposta, e questa riguarda il Veneto, si giocherà solo in tre l'asilo scandinavo che piace al Veneto. Piccoli gruppi, giocattoli lavabili, l'angolo della tosse. È il modello adottato da Norvegia e Danimarca, dove gli asili e le scuole per i bambini più piccoli hanno riaperto. In Italia varie regioni vorrebbero riaprire. Ecco come. Poi vi segnalo dal Corriere della Sera un approfondimento di Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington, sul possibile, non è ancora stato scelto, il possibile candidato come vicepresidente di Joe Biden, che sfiderà Donald Trump a novembre. Vi segnalo in realtà, perché ho sentito molti interventi ieri sui network americani, che forse il tema negli Stati Uniti, ma per un problema di fuso orario forse questo articolo non è riuscito a tenerne conto, per quanto riguarda Joe Biden non è tanto la scelta della vicepresidente, che secondo Giuseppe Sarcina potrebbe essere appunto l'afroamericana della Georgia Abrams, Stacey Abrams, ma in realtà su Joe Biden sono piovute delle accuse molto pesanti di molestie sessuali che risalgono agli anni 90, ma che naturalmente negli Stati Uniti forse più sicuramente rispetto a quello che succede in Europa potrebbero avere un peso nell'evolversi della campagna da qui a novembre. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie veramente a tutti gli ascoltatori che ascoltano attentamente e mi segnalano che gli anticorpi non sono microorganismi, proteine, addirittura un'ascoltatrice dice glicoproteine e poi comunque quindi molecole, perché le proteine sono molecole, questo possiamo dirle, ma è giustissimo essere molto precisi quando si usano termini scientifici, quindi grazie. Poi all'ascoltatore che dice: non credo che in tutti i balconi d'Italia si sia cantata Bella Ciao. No, nessuno l'ha scritto. Da alcuni balconi, io ho visto quelli di Milano, c'era la bandiera italiana, e da altri si è sentito cantare Bella Ciao. Io quello personalmente, ma non, questo naturalmente non significa nulla, non l'ho neanche sentito, però è successo. Vi segnalo dalla Repubblica un interessante approfondimento di Giampaolo Visetti su Venezia, perché ricorderete, Venezia appunto naturalmente in Veneto, quindi come abbiamo detto una delle regioni più colpite, ricorderete sicuramente era ancora in corso il carnevale, il governatore del Veneto decise di chiuderlo 3 giorni prima della ufficiale chiusura della festa del carnevale, ma Venezia veniva anche dalla grande difficoltà legate all'acqua alta e poi il lockdown, perché Venezia comunque dipende moltissimo dal turismo, l'ha messa in ginocchio, e quindi Giampaolo Visetti è andato a Venezia, ci è stato parecchi giorni, e racconta l'ultima ora di Venezia, prima sommersa e poi abbandonata, già perso 1 miliardo, ora è rischio crack. Pensate che i residenti, questi numeri sono appunto, li trovate a pagina 21 della Repubblica, i residenti di Venezia sono oggi 52.000, prima del lockdown erano 180.000, il buco nelle finanze del comune è di 300 milioni. E poi a proposito di, in questo caso non città ma settori, e per la precisione un'impresa che è la Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca, approfondimento di Lucio Cillis a pagina 25, dicevo a proposito di settori in difficoltà, quindi il trasporto e in particolare il trasporto aereo, Lufthansa perde 1 milione ogni giorno, salvataggio pubblico da 10 miliardi in vista. E poi questa è una notizia che fa molto male, secondo me, perché abbiamo sicuramente tutti gioito vedendo le foto di tanti animali che si sono ripresi i loro spazi o hanno conquistato degli spazi in città, perché le città sono meno popolate da noi esseri umani, e quindi queste trasformazioni legate al lockdown, ma ci sono anche tanti altri problemi, perché ripeto, belle foto quelle dei leoni che si riposano sulle strade non trafficate del Kenya o del Sudafrica, e poi però ce lo racconta Lorenzo Simoncelli proprio da Città del Capo, strage in Congo, uccisi i ranger amici dei gorilla, perché anche le persone che devono controllare per esempio che non ci siano episodi di bracconaggio o di violenza in generale contro gli animali, anche queste sono sottoposte al lockdown, e quindi è successo questo in Congo, imboscata delle milizie Houthi nel parco di Virunga, 18 morti, tra cui 5 civili. I ribelli puntano a uccidere gli animali e impossessarsi di oro e petrolio. A proposito di un altro paese sicuramente in crisi, sia per l'epidemia, perché sapete che il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato per molto tempo ha sottovalutato, sminuito gli effetti del coronavirus, salvo poi fare una piccola marcia indietro anche perché alcuni suoi ministri non sono d'accordo. Vi segnalo però un'intervista di Alan Friedman, pagina 13 della Stampa, a Sebastião Salgado, uno sicuramente dei più grandi fotografi e fotoreporter viventi, che dice: subito sanzioni contro Bolsonaro, in Amazzonia si rischia il genocidio, perché oltre all'emergenza coronavirus in Brasile continua a esserci l'emergenza legata a quello che sta succedendo in Amazzonia, devastata dagli incendi ma anche dalla deforestazione che Bolsonaro ha, diciamo, lasciato succedere più dei suoi predecessori. Ma passiamo ai supplementi della domenica, anche per cambiare un pochino argomento, e cominciamo dalla domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana parte da una brevissima citazione di Italo Calvino, che è questa, e si intitola Il muro. Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori. E poi scrive Gianfranco Ravasi: nel mio ufficio in Treccani, alle spalle della mia scrivania, ho un mattone su cui sono incise queste parole di Italo Calvino. È un'altra citazione, è una citazione di Massimo Brai, contenuta nel suo diario sospeso della mia esperienza di ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2013-2014, intitolato Alla voce cultura, e scrive poi Ravasi: L'immagine del muro divisorio, come è noto, è spesso usata da Papa Francesco, che l'ha trasformata in un motto: non muri, ma ponti. E levare cortine più o meno di ferro, barriere protettive, confini invalicabili, ha come effetto il rinchiudersi a guscio nella propria identità, escludendo per paura o per disprezzo le differenze. E questo è paradossale quando si pensa alla nostra civiltà europea, che è un mirabile arazzo linguistico multicolore, un mosaico policromo di storie e culture, un arcipelago di peculiarità diverse. Lo è ancor di più per la nostra patria, che ha, l'Italia quindi, che ha impronte di popoli, arti e costumi diversi, che vanno ad esempio dai Fenici ai Bizantini di Ravenna, dalla Magna Grecia ai monumenti arabi e normanni di Palermo e alla corona ferrea della Longobarda Teodolinda, e così via. L'Apostolo Paolo aveva ben compreso l'anima aperta e universale del cristianesimo quando ai cristiani di Efeso aveva scritto: Cristo ha abbattuto il muro di separazione che divideva i due popoli, l'ebreo e il pagano, creando dei due un solo uomo nuovo e facendo la pace. Ma la copertina vera e propria è di Vittorio Lingiardi, che parla del fegato, che è un motore della vita. Io ricordo qui un piccolo aneddoto personale: mio papà ha fatto tutta la vita il medico ospedaliero, è un neurochirurgo, e mi ricordo una divertente discussione tra amici con un medico invece che si occupava di fegato, e diceva: sì, il cervello è vero, senza cervello non siamo esseri umani, però senza fegato il corpo umano non vive, mentre senza cervello in realtà un corpo può vegetare. E allora, quindi, motori della vita, la storia medica, psicologica, mitologica, simbolica e letteraria della ghiandola più grande del nostro organismo. Adesso ci vuole fegato, di Vittorio Lingiardi. Poi vi segnalo, sempre dalla domenicale del Sole 24 Ore, molto interessante questa recensione di Ermanno Bencivenga a un libro che per ora è stato pubblicato solo in inglese, Separate, The Story of Plessy Ferguson. È il caso appunto di Homer Plessy, che nel 1892 in Louisiana prese un 1892, pochi decenni dall'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti, prese un biglietto in un vagone per bianchi, fu arrestato. 4 anni dopo la Corte Suprema confermò il verdetto: non era un treno per neri. E a proposito invece di lockdown, è molto interessante questo intervento di Giorgio Vallortigara, quei neuroni silenziosi sotto la mascherina. Neuroscienze, cosa succede al cervello quando viene occultato parte del volto? Sicuramente anche voi avrete riflettuto, no, su questa bizzarra nuova condizione che ci vede incontrare tante persone, ma spesso possiamo vedere solo i loro occhi. E oltre al fatto che, appunto, a chiedersi cosa succede sotto la mascherina, per esempio se la bocca sta abbozzando un sorriso, ci sono anche questi altri temi, quelli delle neuroscienze. E poi vi segnalo una bellissima recensione di Maria Luisa Colledani a un libro uscito in questo caso in francese, L'uomo che sussurra alle renne, il viaggio del fotografo franco-armeno Alexis Pazumian tra gli Eveni, un'etnia della Yakuzia, 3 mesi di isolamento tra allevamento e pesca in compagnia di Sasha, appunto, di cui vedete anche una foto, che viene definito l'uomo che sussurra alle renne. La lettura del Corriere della Sera, come sempre la copertina è affidata a un artista, questa settimana è Giuseppe Veneziano, e abbiamo detto delle disuguaglianze, soprattutto delle discriminazioni che per tantissimi anni e ancora oggi di cui gli afroamericani soffrono negli Stati Uniti. Questo è un lungo articolo di Marco Bruna intitolato No, non siamo tutti uguali, ed è in realtà una intervista ad Alice Walker, la scrittrice afroamericana, che parte dai dati impressionanti sulla diffusione del Covid, e questo tema, appunto, in Louisiana il 33% sono neri, il 70% però dei morti, il 33% della popolazione è afroamericana, ma il 70% dei morti da coronavirus sono afroamericani. Michigan 14% di percentuale di neri, 40% dei morti. E Alice Walker, appunto, che tra l'altro è premio Pulitzer, ricorda un detto della sua comunità: quando l'America bianca prende il raffreddore, l'America nera muore di polmonite. Poi vi segnalo sempre dalla lettura del Corriere della Sera abbiamo parlato di questo riappropriarsi di alcuni animali, di luoghi che non erano più loro, o comunque addirittura appropriarsi delle città. Così le città modificano il DNA degli animali. Fabio De Otto ci racconta: ci sono topi metropolitani e topi di campagna, ci sono volpi metropolitane e volpi di campagna e altri interessanti spunti. Robinson della Pubblica esce al sabato il supplemento culturale, ma lo trovate poi in edicola tutta la settimana, quindi anche oggi. Liberiamoci dal male, la copertina è tricolore con tanti interventi ispirati dal 25 aprile. E poi vi segnalo sempre da Robinson una bella recensione di Marino Niola a un libro che deve essere bellissimo di Edward Wilson, un grande etologo o socio etologo, che si intitola Le origini profonde della società umana, pubblicato da Raffaello Cortina. L'unione fa la forza, racconta appunto l'evoluzione delle società animali, tanto che viene definito Edward Wilson il padre della sociobiologia, e l'articolo è intitolato L'unione fa la forza. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Filippo Oreggi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.